avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Domanda secca che richiede una risposta altrettanto secca. Cosa ci succede quando moriamo? Eh sì, già ho visto le risposte. Questa mattina ho posto questa apocalittica domanda su Facebook e tutte le risposte elusive, apocalittiche. Peggio per chi rimane, ce ne andiamo da un'altra. Insomma, ognuno cerca di girarci intorno, però nessuno sa dare una risposta. Allora, i punti di vista e le risposte possibili sono essenzialmente di alcuni ordini ben definiti. C'è chi dice quando moriamo finisce il nostro processo biologico, quindi finisce tutto perché non c'è altro. Fine, ci disfacciamo, a un certo punto si spegne l'interruttore e non vediamo più niente, anche la nostra coscienza finisce. Qualcun altro più possibilista dice beh no, la nostra coscienza in realtà avendo una sua composizione in qualche maniera fisica, essendo composta, parlo in maniera molto rozza approssimativa, di impulsi elettrici, di qualcosa, sopravvive comunque al disfacimento organico e quindi, come in alcuni esempi di premorte, le persone che hanno incidenti si vedono improvvisamente galleggiare sopra l'auto incidentata, significa che quello che noi chiamiamo coscienza, il software che muove il nostro corpo, comunque è una sorta di nuvola di impulsi elettrici e quindi anche lui una sua sopravvivenza. Galleggiamo, vediamo le persone affrante attorno a noi, poi quello che succede dopo nessuno può dirlo. Possiamo dire cosa succede in questo momento? Ci sono persone che l'hanno testimoniato, persone che hanno avuto incidenti, momenti traumatici, sono visti improvvisamente avere questo fantastico momento di tranquillità, di serenità in cui il corpo scompare, ci vediamo sollevati, siamo sempre noi, ma galleggiamo e poi improvvisamente rientriamo bruscamente nel corpo. Fino a qua abbiamo testimonianza. E dopo naturalmente esistono le persone dotate di una fede religiosa che hanno un loro universo a seconda della loro fede ben definito, a seconda di come supererà in vita e se avrà una proseguo della vita soltanto spirituale, che può andare da dei momenti di offuscamento dovuti alla nostra cattiva coscienza, al male operato e via dicendo, ma alla fine arriveremo tutti a una sorta di momento di beatitudine, di contemplazione, quindi di fusione con l'assoluto e nella fede cattolica soprattutto, è il fatto più importante a cui nessuno pensa, ci sarà un domani la risurrezione della carne. Quindi recupereremo la carne che abbiamo abbandonato. E questa è una concezione fantastica, bellissima, ma nessuno può portarci prova testimoniale che questo accada realmente. Poi esistono, non elenco tutte le religioni, tutte le, diciamo, i sottoinsiemi, i sincretismi, chi mette un po' qua un po' là, parla di karma, parla di trasmigrazione della nostra anima in varie fasi, parla di varie fasi che si compiono per recuperare degli stati di vita diversa e superiore, parla di esseri, di guide, di maestri, ci sono signore della Roma Bene che si imparano a memoria al Bardo Todol, il libro tibetano del morto e già si preparano a tutte le visioni, tutto ciò che accadrà dopo che saranno morte, però ancora nessuno ce lo può raccontare. Beh, questa mattina vorrei che voi mi raccontaste il vostro punto di vista. Ci avrete pensato? Non ci pensiamo mai, tendiamo a rimuovere questo problema, poi quando comincia a avvicinarsi un momento un po' difficile preghiamo, immaginiamo, meditiamo, andiamo da maestri di vita, bruciamo gli incensi, facciamo il tantra retroflesso, insomma ci diamo da fare per dare una soluzione, ma nessuno mi dice veramente, sinceramente, cosa pensa. 800240024. Ditemi, secondo voi cosa succede nel momento esatto in cui si spegne la luce e noi moriamo? Ma che sei bruciato? No. Stavo per terra, come svenuto. Sembrava che non si fosse fatto niente. Povero Don Annibale, chi se lo sarebbe immaginato? Sono tornato a casa e ho trovato così. Chi ha detto il dottore? Il cuore. Ma perché quando uno muore piangono tutti? Io non capisco. Credono solo nella vita e pensano di stare meglio di noi. Non va allarmata, non è una trasmissione triste da doversi grattare per forza gli attributi, fare gli scongiuri, già vediamone in allegria, ridiamoci sopra. Proprio per questo io non ho messo accanto a me un teologo, un esperto in al di là, qualcuno che ci fa riflettere su queste cose. Ho portato chi può maggiormente seguirmi in questa ilare scanzonata rassegna dei possibili post-mortem, Giuseppe Sanzon. Buongiorno. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Oggi, diciamo, la funzione psicopompa sta a te, sarai tu che ci condurrai, non ridere, sei pugliese tra l'altro, e ci condurrai in questa sorta di lettura iconografica degli al di là possibili. Non guardiamo le vanitas, non guardiamo le grandi rappresentazioni del passato, nemmeno andiamo a lambire il dominio incontaminato, se non da Benigni, nel grande padre Dante, ma fermiamoci al cinema. Cosa abbiamo sentito? Bellissima questa frase, riassume in una battuta quello che ho già detto io. Esattamente, Fantasmi a Roma di Pietrangeli del 61, dal punto di vista autobiografico risale al momento in cui io ho percepito bambino l'aldilà, la morte, vedendo questo film in cui Edoardo De Filippo, questo principe in questo palazzo signorile patrizio romano, muore per uno scaldabagno malmesso e quindi vede andare in dissolvenza in nero i vivi e apparire i fantasmi. Quindi già c'è una risposta, vedi, io ho fatto una domanda precisa, il regista in questo caso dà la sua lettura, c'è una dissolvenza in cui lentamente va in secondo piano il mondo dei vivi e appare il mondo dei morti, c'è una realtà parallela. Appaiono questi fantasmi bianchi maiolicati meravigliosi, il Casanova, Mastroianni, l'Ofelia, Sandra Milo, il fratacchione, l'Orson Welles di Frascati, Tino Buazzelli, che abitano questo palazzo e poi faranno in modo anche di sottrarlo a una speculazione edilizia. Però la dolcezza e la sensibilità di Pietrangeli mostra anche, questo è un film da far vedere ai bambini, perché ha una dolcezza nel raccontarti quello che accade dopo, probabilmente è un'intuizione, una prefigurazione immaginifica, però forse ha qualcosa di profondamente autentico. Diciamo, questa riassume un altro punto di vista. Dagli inizi, dalla fine 800, inizio 900, nel momento in cui le grandi religioni vengono messe in precario dubbio dal positivismo, dal nicciano Dio è morto e via dicendo, in certi circoli americani ma anche europei, Madame Blavatsky, le sorelle Fox e via dicendo, hanno cominciato a mettere insieme un po' di cose e hanno definito questa idea che esiste un mondo dei morti parallelo a quello dei vivi. Hanno cominciato a parlare coi morti. La fotografia allora agli albori li aiutò molto, le foto degli ectoplasmi erano la prova concreta, era una maniera di provare concretamente, quando ancora non si parlava di contraffazione dell'immagine, che esisteva il mondo dei morti. Era un senso riposante, carezzevole, che in fondo i morti sono lì, sono sempre vicino a noi, sono fantasmi gentili, vestiti in fogge antiche, noi andiamo a ritrovare loro, quindi ritroviamo nonne, zii, nipoti, amanti perduti, fanciulli che non eravamo più, e quindi questa è una visione molto consolatoria comunque dell'aldilà. Dove dire qualcosa? Sono angeli custodi che interagiscono ancora nella vita, nel caso di Pietrangeli, però sono inseriti ancora come noi nel tempo, nei 25 fotogrammi al secondo del tempo. Questo è il mistero vero, come sarà il tempo dopo lo scandire delle... Sentiamo Marco da Milano. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, complimenti alla trasmissione, grazie di aver richiamato. Io credo che la domanda debba essere posta in maniera diversa. Cosa vorremmo noi che ci fosse una volta morti? Beh, è la stessa cosa, io ho detto, secondo voi cosa c'è? E io racconto... Io penso, sì. Una è quella che ha detto lei, si spegne l'interruttore e finito tutto. Basta, buio totale, si perde... esatto, oppure di là si sta talmente bene che però il prezzo da pagare per questa, diciamo, eterna felicità è quello di non poter avvertire nessuno di coloro che stanno al di qua che in effetti c'è qualcosa. Io ne sono talmente convinto che, per esempio, io già con i miei figli, diciamo con la mia famiglia, ci ho detto, se quando vado di là mi dicono o l'eterna felicità e non avverti nessuno, oppure diciamo vai all'inferno però hai la possibilità di avvertire qualcuno, io a quel punto avrei già fatto la mia scelta. Pensi, l'umanità è antica, vuole che in tutto questo lasso di tempo nessuno abbia tradito la consegna e comunque abbia cercato comunque di mandare dei messaggi. È che in realtà, al di là dei racconti, delle visioni, delle evocazioni, delle sedute spiritiche e dei programmi televisivi sui fantasmi, in realtà una prova concreta del di là non l'ha mai portata nessuno. Sì, ci sono gli apporti, c'è un museo sul Lungotevere a Roma che si chiama il Museo del Diavolo, fa vedere tutte mani bruciate, pezzi di vestito, però Sa... però magari perché di là si sta veramente tanto bene che uno dice vabbè, tanto poi anche quando moriranno fra 200 anni, fra virgolette, i miei cari li rivedo ancora e saremo tutti felici e contenti. Secondo me le porte, ammesso ci siano, sono un po' difficili da passare, perché dico, se ci fosse soltanto una possibilità, in milioni di anni qualcuno comunque avrebbe tentato di passare questa porta. Grazie comunque. Rosario. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che succede? Oggi è il mio compleanno. Complimenti. Beh, ancora vivo, è una bella speranza. Grazie. È quello che auguro a tutti, è quello che ci dicevamo poco fa. Io credo che dopo la morte non ci sia null'altro che l'eternità. Il nulla è il disfacimento. Ha detto tre cose in contrasto. Allora, se c'è l'eternità non c'è il nulla, perché l'eternità comunque percepiamo un tempo che non finisce mai. Il disfacimento, se c'è il disfacimento, è una fase comunque di coscienza. Ci rendiamo conto che la nostra anima si disfà come si disfà il corpo, quindi lentamente perdiamo i ricordi, come diceva il compianto Filippo Martini. Ci sono dei cammellini che ricordo dopo ricordo ci portano via tutta la nostra vita. Questo accade secondo lei? No, secondo me non accade questo. È un'ipotesi, secondo tanto lei me... che ne sa quanto me, ne sa quanto ne sa il Papa, ne sa quanto ne sanno tutti, perché in realtà il resto sono atti di fede, rispettabili e invidiabili, però la realtà non ce l'ha nessuno. Personalmente io ho avuto una proiezione di corpo astrale. Ah beh, lei lo dica allora. Allora mi nasconde la parte più interessante. E lei ha avuto un'esperienza. È capitato. E che è successo? Ce lo dica. Non la prendo in giro, sono interessato. Per un attimo, no, lo so, per un attimo ero piuttosto giovane, mi sono ritrovato a seguito di esperimenti di respirazione proiettato fuori da me stesso. Ma cioè faceva autostrangolamento, cosa faceva? No, assolutamente, facevo degli esercizi di respirazione profonda, nient'altro. E si è trovato coscientemente fuori del suo corpo? Sì, coscientemente per una questione di, diciamo, pochissimi secondi e poi c'è stato un rientro violento, traumatico, spaventoso alla vita. E lei vedeva il suo corpo al di là di... coscientemente vedeva se stesso? Io ho visto il mio corpo coscientemente per un attimo, disteso sul pavimento, pienamente lucido, consapevole del Lei non, fa altro, non fa altro che riferire quelle che sono tutte le testimonianze di premorte o di uscita dal corpo indotta e cosciente, che è una casistica che esattamente c'è le stesse cose, un senso di liberazione, di pace assoluta, di silenzio, di levità e leggerezza. E poi questo brusco e violento rientro nel corpo, la ripresa della propria materialità, del proprio percettore di stimoli sensoriali è anche traumatica. E questo sì, fa pensare che sia sì, bello in fondo, tutto sommato, fare questo passaggio. Arrivederci e grazie. Come? Vai via così? Ma come vado via così? L'obolo te l'ho dato, no? Sì, ma il supplemento? Un momento, Don Garò. Il signore napoletano, amico mio. Oui. Oui. Pacifico. Toto. Come sta? Grazie mamma. E da quanto tempo stai qua? Io sono 20 anni che sto qua. Cioè, già, è vero, tu moristi 20 anni fa, ma mi ricordo. Io venni pure al tuo funerale. Le risate quel giorno. E tu quando sei arrivato? Adesso. E come ti trovi qua? La verità, ero stanco della vita e mi sono suicidato. E quando ti sei ammazzato? Oggi, sono morto di giornata, morto fresco, senti. Ma chi te l'ha fatto fare? Ma perché qui non ci sta bene? No, non è che... Ancora non vi ho pregato, il signore napoletano, amico mio. Vai a voi, anime brave! Ma che anime brave, anime brave, noi siamo amici da vivere. Giuseppe Sanson. Questo è Totò l'inferno di Mastro 5 e qui abbiamo appunto la sintesi di quello che Flaiano diceva in quegli anni, che dice, per gli italiani l'inferno è quel posto dove si sta con le donne nude e con i diavoli ci si riesce sempre a mettere d'accordo, vero? Totò arriva in questo misto di gabinetto del dottor Caligari con scenografie espressioniste e di Night, che era tipico dei suoi film, questa iconografia appunto piena di napoletani in cui ci si arrangia, ci si riconosce, uno specchio. È molto più semplice rappresentare l'inferno sia nell'immaginario sia dal punto di vista della letteratura che appunto il paradiso, l'oltre come paradisiaco, come il bene, perché l'inferno è così simile al nostro presente che diventa molto il cortocircuito iconografico è più semplice, più immediato. Ma infatti nella nostra rozzezza adolescenziale, quando eravamo costretti, erano tempi seri, dai salesiani a studiare verso dopo verso Dante, il primo anno era divertente, si faceva l'inferno. Ma andando avanti, il purgatorio già era qualcosa che cominciava. Ma l'anno del paradiso, in terza liceo, era una noia bestiale. c'era troppa luce. Ma no, ma non capivamo perché, a fare che. Eravamo talmente rozzi e mancanti di dimensioni profonde che diceva, beh, l'inferno capisco, danno qualche furconata, ma c'erano i lussuriosi, c'era un sacco di divertimento, quelli che sprofondavano negli avelli, ti mettevi d'accordo con i diavoli, potevi comunque sfangarlo, ma in paradiso che facevi? Bernanò diceva che il male è materia da romanzo, poi il bene è molto difficile da rappresentare. Per coloro che fossero curiosi a vedere alcune nostre proiezioni personali, Sansonna e io abbiamo già messo sul mio profilo Facebook una rappresentazione del nostro post mortem fatta pochi secondi fa e già fruibile in rete. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Allora, per prima cosa, io credo purtroppo che non ci sia nulla, nel senso che sono convinto che si spenga la luce e basta. Non credo. Ma lei lo dice per una sua necessità di punto di vista laico? O tiene sempre un retroterra di speranza che ci possa essere? No. Allora, io infatti è proprio quello che volevo dire. Io credo ci sia io voglio sperare che ci possa essere qualche cosa, però la mia amara considerazione è che purtroppo non ci sarà nulla. Comunque, guardi, mi scusi, poi non la interrompo più. Sì. Anche il pregiudizio totalmente laico, dire non c'è nulla, è altrettanto fallace quanto la speranza nei paradisi più paradisiaci. Perché nessuno può dirci che non ci sia veramente nulla, che si spegne la luce. Quindi siamo tutti uguali di fronte a questa domanda, perché nessuno ha realmente una risposta che sia certa. Vada pure avanti, non la interrompo più. Infatti credo che sia proprio per questo che io comunque, per cautelarmi, ho preso un accordo con mia moglie nel caso io dovessi prematuramente scomparire, che non so, lei dovesse incontrare qualche medium che fosse in contatto con me, abbiamo una parola d'ordine che sappiamo solo io e lei, quindi se sono veramente io quello dell'aldilà che la contatta, con questa parola d'ordine sono sicuramente io e nessuna medium potrebbe... Le posso dare una certezza perché il suo esperimento abbia dei plausibili margini scientifici? Lei non dovrebbe dirla a sua moglie, perché se la parola d'ordine la sa sua moglie, la medium può facilmente estirparla a sua moglie e fargliela dire. Lei dovrebbe andare da un notaio, dire al notaio di mettere in una cassetta sigillata una parola che decide lui, che sa soltanto lui. Poi dopo, quando lei schiatta, sua moglie va dalla medium, si fa dire la parola d'ordine e poi la confronta con il notaio. Se no, sa, è condizionata. Sua moglie va da un medium un po' paraculo, gliela fa dire in 30 secondi la parola d'ordine e diventa schiava del medium. Usi quest'altro sistema. No, mi si fidi io di questa esperienza. Il notaio annichilisce un po' la poesia, però comunque. Però deve essere così, se no. Marco da Torino. Buongiorno. Eccomi. Io volevo innanzitutto riallacciarmi a quello che dicevate voi, cioè effettivamente non c'è nessuna prova tangibile, nessuno può dire cosa ci può essere nell'aldilà. Però io ho trovato molto interessanti i libri di Brian Weiss, uno psicoterapeuta americano che facendo regredire sotto ipnosi i pazienti è riuscito a entrare in una dimensione diversa, nel senso è riuscito a far rivivere le vite passate a questi pazienti, quindi secondo me è una cosa molto interessante da tenere in considerazione, cioè, da non escludere queste teorie che sono poi si riallacciano alle teorie buddiste. Sì, poi quello sono scelte, sai, io preferisco leggermi San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila se voglio vedere delle rappresentazioni comunque della spiritualità. Ognuno sono scelte, vale la sua come vale la mia, la notte oscura vale come il buddista che fa le introspezioni ipnotiche. Non vorrei entrare nelle interpretazioni altrui, vorrei sapere la propria convinzione personale. Ognuno di noi può leggere dei libri, farsi le convinzioni che più lo soddisfano, ma in realtà vorrei capire veramente cosa pensate voi. Sandra. Ciao carissimo. Ci conosciamo, Sandra? No, non ci conosciamo, ma... In altre vite ci vedemmo. Sì, probabilmente sì. Sai che non c'è niente per niente. Peccato, vero? Che non me lo ricordo. Se siamo al telefono ora c'è un perché ci ha fatto incontrare. Mi ha telefonato un'amica da Milano e mi ha detto dai, chiama, e ti do il numero, mettiti, sintonizzati. E ho girato la manopolina sulla vostra emittente e eccomi qua. E adesso? Credo di dovervi dire due o tre cosine, perché io sì, basta, le dici in fretta. A Milano, sono arrivata a Milano con un libro i cui proventi andranno tutti in beneficenza per... Stai facendo una marchetta, no? No, taci. E io scrivo di queste cose, io testimonio queste cose, ma chi testimonio sei la vita dell'aldilà. Ah, sono, sono una persona normalissima. Cosa fai? Parli con i morti? Io li vedo, ci colloquio. Parli con le persone morte? Sì, esattamente. Lo fanno tanti, non è una cosa... Lo so, ma io non ci lavoro, sai, non lo faccio per lavoro. Per cui ci sono delle prudenze che vanno adottate. E che ti dicono i morti? Non... Sì, vabbè, questo... se no faremo la trasmissione sullo spiritismo. Avrai il tuo metodo. Sì, mi dicono i morti. I morti da me vengono soltanto se è concesso loro di interferire o di contattare. E chi dà il permesso ai morti di interferire? Il grande capo, il grande architetto. Io lo chiamo Dio. Allora, Dio dà dei permessi ai morti di poter entrare nel mondo dei vivi. Sì, di poter contattare i vivi. Non passano di qua, il velo è sottile. Non tutti possono oltrepassare il velo. Ma che dicono quando vengono? Cosa... Non lo dico, non ti voglio prendere in giro. Non devo prendere in giro. Loro vengono perché è giunto il momento, questo adesso attuale, di comprendere che la vita va avanti. Sì. E di comprendere che la vita non è l'illusione materiale, ma che la vita è quella dello spirito. Beh, questo lo dicono anche i parroci di campagna. Ma certo, però non andiamo più in chiesa noi. Che tu non ci vai, molta gente ci va. Se la gente ci va, allora non c'è problema. Cioè, se i morti sono l'alternativa a una buona predica di un buon parroco, ma non mi dicono nulla di nuovo. Ma allora perché fai questa trasmissione? Cosa vuoi sentirti dire dalle persone? Cosa le persone pensano realmente, al di là degli schemi, delle convinzioni, cosa pensa ognuno? Un problema che non si pone. Ecco, allora io ti dico questo, per me è una cosa bellissima, li vedo, ci parlo, ci sento, ci dialogo, so che la mia vita è eterna. Va bene, sono contento. Ed è una cosa, diciamo, che tutti dovrebbero condividere, non dico il fatto di vederli perché... forse non siamo preparati a tutti a queste cose, però anche perché abbiamo già una serie di relazioni da gestire con i vivi, se ci mettiamo anche quelle dei morti. Infatti, ho 10.000 persone sul social network, più una serie di amici, persone per lavoro, una famiglia numerosa, vari ascoltatori, ci metto anche i morti, la mia vita esiste più. Ma ascolta, ma tu ti fermi a chiedere alle persone cosa ne pensano per qualche motivo particolare o era solo la curiosità? No, siccome questa mattina mi sono posto la domanda, dico: Sansone, vogliamo parlare dei morti? E lui ha detto: va bene, e così ne parliamo. È un argomento come un altro. L'altro giorno abbiamo parlato di passera. Ogni giorno c'è un argomento che ci dà un senso della vita. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ora voglio dirti il mio segreto. Va bene. Vedo la gente morta. Quando dormi. Quando sei sveglio, morti come nelle bare, nelle tombe. Vanno in giro come persone normali. Non si vedono tra loro. Vedono solo quello che vogliono vedere. Giuseppe Sansonna, può essere più un segreto, un sapere nascosto, esoterico? Quelli che vedono gente morta, dopo ci sono stati tanti film che parlano appunto di gente morta. Io vedo anch'io gente morta tutti i giorni, però tutti pensano che siano vivi. Li vedo, camminano in mezzo a noi. Reperirli a casa un certificato. Sì, c'hanno anche quell'odorino un po' di ammuffito. Ecco, di cosa stiamo parlando? Questo è Il Sesto Senso, appunto. È un bel film, indubbiamente. Sì, sì. Non riveliamo. Ricorda molto la storia della nostra ascoltatrice di poco fa, insomma, e racconta appunto questa percezione del mondo parallelo, del mondo altro. Io credo invece biograficamente che quello che mi mancherà, che credo vi mancherà, saranno appunto nella vita, quei momenti in cui si ride insieme di qualcosa, ecco, quella sintonia fra viventi, quando, ecco, quello forse è una percezione. Ecco, i morti me li immagino che non ridono mai, sono sempre tristi, con la faccia da mortaccini, quella è la cosa che un po' mi dispiace. Che sintonia avranno fra di loro? Noi non ce l'abbiamo fra le nostre clip, però Citti fece un bel film quando fece Mortacci. Ce ne abbiamo parlato però più volte. Dimmi qualcosa su Mortacci, perché è una visione un po' diversa. Mortacci è una visione appunto... terrena ancora dei morti, che finché qualcuno si ricorda di loro, finché qualcuno ne ha memoria, rimangono in questa sorta di limbo, in questo cimitero gestito da Gassman, che ha questa fascia intorno alla testa, come se fosse quella fascia che si metteva intorno alla mandibola dei morti. Sì, anche Totò, anche è morto che parla quando lo fa De Filippo, 47, si mettono sempre la fascia, perché una volta si metteva la fascia per bloccare la mascella, oggi non so cosa usino, dei sistemi sintetici, metteranno una sorta di botox, regge mascella, non so bene, non voglio saperlo. E in questo cimitero ci sono vari appunto popolano la notte questi morti, fra cui c'è Galeazzo Benti, c'è Sergio Rubini, che è un eroe di guerra, che tutti lo credono morto, quindi il suo piccolo paese vive sulla sua memoria, in realtà lui è ancora vivo. Quando torna lo inducono a suicidarsi perché gli introiti del paese possano continuare a pervenire. E queste sono letture consolatorie che si fanno rappresentando il punto di vista dei morti. Vedi, anche in Sesto Senso il protagonista Bruce Willis, in realtà lui è morto, sì. È l'incubo di una persona già morta che vede il mondo dei vivi, come un altro film che facciamo soltanto sentire per completezza. I dottori non hanno ancora trovato una cura. Per cosa? Per il loro male. I bambini soffrono di una violenta allergia alla luce. Sono fotosensibili e non devono essere esposti a luci più intense di questa. Altrimenti nel giro di pochi minuti gli si formano piaghe, vesciche, iniziano a soffocare. Potrebbe essere loro fatale. Santo cielo. Questa è una fantastica Nicole Kidman, questo è il punto di vista di una madre che ha ucciso i figli, si è suicidata e vive ingabbiata nel suo rimorso in una casa in cui pensa di dover vivere con i figli con le finestre chiuse, che soffrono una sorta di malattia fotofobica. In realtà anche loro avvertono delle presenze, noi tutti pensiamo sono presenze dei morti, ma in realtà sono i medium che evocano loro stessi. Che film è questo? Questo è The Others di Amenabar, dove qui l'autore recupera delle atmosfere da Giro di vite di Harry James, queste apparizioni dalle tenebre, questi lampi dal buio, è molto inquietante, molto preciso. Questo dimostra che fra le tante supposizioni che ci facciamo del post mortem, cioè quella che noi vediamo il mondo dei vivi come un'evocazione, come una visione, come qualcosa di alieno. Graziano. Buongiorno Gianluca. Eccomi qua. Allora, stai attento, io... E chi si muove? Sono qua. È posseduto, allora, è posseduto? No. Cioè, quello che ti dico è pura verità, credici o non credici. Io per 15... Io non credo mai a nulla. Se lo dici te, prendo atto che è una tua testimonianza. La verità non la conosco. Io volevo una spiegazione, questa è una cosa ormai che qui da me lo sanno. Io ho visto mio padre per 15 giorni, tutte le mattine. Era 10 anni che era morto, io facevo il camionista... E quando mi alzavo da casa, io avevo una procedura, ero al secondo piano, facevo tutte le scale, andavo giù in strada perché ero sveglio, mettevo in moto il mio camion e rientravo in casa. Per 15 mattine quando ho aperto la porta... Ma scusami, lui si è rifatto vivo dopo 10 anni che era morto o subito? Sì, ma mi aveva anche accompagnato, mi accompagnava... Per 10 anni non ha dato nessun segnale, dopo 10 anni è riapparso? Per 15 mattine. E come lo vedevi? Ah, come vivo e sano, li ho anche... Ci siamo anche dentro qualcosa, non posso dirti. Ma era corporeo o era soltanto un'immagine? No, era uomo. Era perfetto, come visto bene, sorridente, allegro, e mi accompagnava anche. Ma era, cioè, se tu lo toccavi, esisteva oppure era un'immagine? Non l'ho toccato, mi accompagnava. Non l'ho toccato. Camminava? Ho fatto sbaglio non toccarlo, perché davanti alla porta, al cancello, c'è circa 25 metri. 20 metri. Lo vedevi a distanza, non era proprio vicino? No, a distanza, lo vedevo a un metro. E non allunghi una mano per toccare una persona? ragazzo, provo a te. non so, in 15 giorni dopo un po' avrei provato io. No, ma poi gli ho chiesto delle cose, ho chiesto... E lui rispondeva e tu avvertivi la voce? Mi ha detto delle cose non posso dire. No, non le voglio sapere, se non le puoi dire. Tutto qua. Comunque, a me non accenno, non lo puoi fare. Più o meno, di cosa parli? Ma io ti dico che al mio peggior nemico non li auguro andare nel luogo della perdizione. Al mio peggior nemico non li auguro di andare nel luogo della perdizione. Ecco, questo è interessante. Tuo padre ti ha detto lui dove stava? No, non me l'ha detto. Ma era felice, contento, sereno? Ah, guarda, sorridente... Ma vestito come l'ho messo nella bara, io me lo ricordavo perfettamente. Ma questa è una cosa che non è una novità, che io sono andato in altre parti di questa frase. Adesso questa mattina per radio ho sentito la tua trasmissione. No, ma io guarda, non, se tu me lo dici, non sospetto tu possa dirmi una panzana. Ecco perché non è una cosa. E né questo mette in dubbio nessuna mia certezza, nessun mio dubbio. No, ma può essere che tu abbia visto. Quando sento dire, no, è sempre che ti ho chiamato. Perché quando sento dire che l'aldea non c'è niente, non ci credono, io ti dico che c'è un'aldea benissimo. Ti dico soltanto c'è un luogo della perdizione. Ma questo te l'ha detto tuo padre o lo intuisci te? No, guarda, te lascia stare. Non puoi fare il misterioso adesso, ormai è cominciato, finisci. No, basta. Ti ha dato dei messaggi tuo padre? Ti ho detto... Non vuoi dirlo. Hai già detto troppo. Hai già detto. Ho già detto troppo. Però scusa, allora io intuisco. Tuo padre ti ha aperto un canale di comunicazione e tu continui a parlare con persone. No, basta. In 15 giorni hai saputo tutto quello che l'umanità rincorre da millenni. Ho saputo tre cose e basta. Hai tre segreti. E poi, non so, tre segreti. È un luogo della perdizione, un dei campi pieni di nebbia, che sarebbe il purgatorio, è un luogo della pace, della felicità. Cioè lui ci ha dato la sua configurazione dell'aldilà. Ecco, purtroppo che è simile a quella, diciamo, di noi cattolici. Poi io sono andato da un sacerdote, gli ho fatto dire varie messe e si è placato. E si è acquietato tuo padre. No, io non l'ho più visto. Ecco, però mi ha dato una felicità tremenda. La mia vita è cambiata da ateo, da quasi ateo. Sei diventato credente? Beh, questa è una buona cosa. No, tu almeno hai una certezza, tu sai esattamente cosa. Guarda, questo volevo, sei il primo che mi dà una cosa che per me è una certezza. No, guarda, io ti dico, sono certo e sicuro al 100%. Sono felice per te. Io ancora non mi è capitato di incontrare persone. Il giorno che le incontrerò te lo racconterò. Alice. Pronto, buongiorno. E secondo la mia opinione, comunque può sembrare una stupidaggine. Qualunque opinione sembra una stupidaggine non essendoci prove concrete. Sì, infatti, il nostro universo è considerato un universo. Secondo me ci sono più di uno, sono molti versi. Lo dicono tanta gente questo, sì. Infatti anch'io ci credo in questo. E credo che la nostra energia, che poi i cattolici lo chiamano anima. Ma tu di quale setta appartieni? Quale gruppo di pensiero? Io sono calvinista. Calvinista? Sì, che è una... Sì, non è una setta, non è una religione. Ecco. Poi i calvinisti questo non dicono. Sono i protestanti. Ma non dicono questo, però. Sono cristiani, sì. Sì, ma non dicono questo che dici te. Assolutamente. Sono anche molto più rigorosi di noi cattolici in questa cosa qua. Non dicono, non parlano di energia, dimensioni parallele, via dicendo. Sì, è vero, però io credo un po' anche nel buddismo. Allora sono sei un po' tutto, sei. Ecco, ti ho detto io. Se ti sentisse il tuo pastore dire queste cose ti prenderebbe a vergate minimo. Ma capito? No, è importante che uno ci creda, poi alla fine ci vado nella chiesa cattolica a pregare, non è quello. Pieno sincretismo. È una sincretista, sì. No, l'argomento era... Tu te la giusti come vuoi, però, scusa. Ecco, la domanda era la direzione, no? Che uno ha, l'energia può essere positiva come negativa, dipende delle nostre azioni. Vabbè, questo lo dice anche Verdone. Se entriamo nel mondo delle energie positive e negative, guarda, andiamo fuori, vorrei qualcosa di concreto, reale, personalmente sedimentato ed elaborato. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Buddha, Mantozzi. Senta, dottor, signor Buddha, io perché sono stato dirottato qui da lei? I vostri missionari dirottano milioni di nostre anime durante la vita terrena. E noi pareggiamo i conti dopo il trapasso. Mi scusi, signori, dottor Buddha, in questo caso, dato che io mi sono faticosamente conquistato il paradiso dall'altra amministrazione, io non potrei usufruire del suo... No, da noi il paradiso non esiste. Qui bisogna reincarnarsi in altre vite, fino all'assoluta purificazione. Signor Buddha, io ne ho già passata una di vita abbastanza ripugnante. Non si potrebbe evitare... Non si preoccupi, lei ha infinite possibilità di nuove vite. Oh, penso che si può scegliere. Io allora preferirei rinascere. Alto, con gli occhi verdi, molto magro, ovviamente miliardario, sposato con... Naturalmente, il post-mortem per l'impiegato Fantozzi è qualcosa di assolutamente sfigato. Giuseppe Sanzone. Fantozzi va in paradiso in questo film e, come citando il sincretismo a cui si alludeva prima, viene dirottato l'aereo verso il paradiso e si trova al cospetto di Buddha che appunto lo costringe a rivivere esattamente la sua stessa vita. Nasce questo bambino col basco e con il solito completo sblusato di... Quindi non c'è un'evoluzione nel karma di Fantozzi. Sempre Fantozzi deve essere condannato a essere. 800240024. Posi la domanda all'inizio della trasmissione, molto semplice, è inequivocabile. Cosa succede secondo voi quando morite o quando moriamo, quando si chiudono gli occhi e si spegne la luce? Cosa succede? Abbiamo avuto un vasto raggio di esperienze: il signore che vedeva il padre morto, la signora calvinista buddista, la signorina che parla con i morti e tutta una serie di letture. Andiamo avanti. Sergio. Sì, pronto, ciao. Hai un'esperienza anche te da raccontare? Sì, allora, a me mi è capitato, facevo, diciamo, muratore. Avevamo finito il cantiere, dovevamo fare delle pulizie, c'era sto fusto di 50 litri e che non c'era l'etichetta. Allora, io l'ho stappato, sono andato su col naso per annusare cos'era, mi ha sbalzato via. Da quel momento, diciamo, io mi sono ritrovato in rianimazione in ospedale. Però nel frattempo... Cosa c'era dentro il fusto? Cosa c'era? Ammoniaca pura. Cioè tu hai dato una sniffata di ammoniaca pura? Sì. E ti ha sbalzato via? Sei come morto? Mi ha sbalzato via, sì. Io, allora, io da quel momento che ho sniffato, dal momento che mi sono risvegliato, sono passate 2 ore e mezza. E quelle 2 ore tu hai un ricordo? Io quelle 2 ore ho un ricordo di una nebbia buia, proprio tipo universo, tutta nebulosa, in un cerchio a spirale che in fondo c'era un puntino luminosissimo. Il famoso tunnel con la luce in fondo di cui parlano tutti. Io mi stavo avvicinando verso, diciamo, verso la luce. Verso la luce. A un certo punto mi sono risvegliato e mi sono trovato in sala rianimazione in ospedale. Ma c'era qualcuno che diceva vieni verso la luce? Oppure... No, non c'era niente. C'era un silenzio assoluto, proprio, diciamo, da tomba. No? E tu camminavi in questo tunnel? Io viaggiavo, ero sospeso. Volavi? Non vedevo nient'altro, vedevo solo buio, questo tunnel qua. Ma eri come risucchiato, risucchiato verso la luce oppure tu ti muovevi? Sì. No, ero risucchiato come verso la luce. Man mano che mi avvicinavo, diciamo, che si ingrandiva questo puntino luminoso, da uno spillo io sono arrivato a vederlo grosso come un dito, diciamo, non di più. Ah beh, poi mi sono risvegliato ed erano... Questo in 2 ore, quindi per arrivare proprio alla luce grande ci saranno volute altre 3-4 ore minimo. Comunque l'umanità da sempre ha avuto questo impasto di sogni, di premonizioni, di visione, anche nel mondo greco, le apparizioni, oppure in Amleto. Ti vorrei dare una nota di servizio, non sniffate l'ammoniaca per riprovarci. Sì, questo perché... è un grande messaggio didattico. Sì, è andata bene una volta Sergio, ne ho detto che possa andare bene a tutti. Grazie Sergio. Marco. Buongiorno, volevo... Pronto? Sì, vi ascolto. Ah sì, volevo dare la mia testimonianza. Allora, il 25 febbraio del 1988 io ero... nel deserto di Agatama con un amico per lavoro. La sera ricevo una telefonata e mi dicono chiama a casa perché c'è qualcosa che non capiamo. Chiamo a casa e insomma scopro che mia moglie e la moglie del mio amico è morta e sono morti in un incidente. Sua allora moglie e un suo amico? Mia moglie e la moglie di questo mio amico. Due amiche insieme. Sì. Quindi erano due amiche, io ero con suo marito, eravamo, diciamo, nel deserto di Agatama. Allora succede che chiaramente a 27 anni mi metto su una duna con questo telefono cellulare satellitare. Ma era vero, erano morte davvero? Sì, erano morte davvero. E dico io, tornare a casa con una famiglia distrutta e tutto, dico, pensavo tra me e me che doveva esserci un senso. E dico, pensando, se devo tornare a casa, rifarmi una vita, bisogna che riceva ora un segno. E il segno lo voglio adesso, se no sinceramente a casa non torno. Come ho finito pensando la frase, c'era un rumore di fondo, tipo grilli, qualcosa, come ho detto adesso, tac, istantaneamente è stato un silenzio. Anche ho detto, beh, ho pensato, se questo è il segno, qualche cosa... l'ho capita, cioè qualche cosa c'è, loro non sono solo morti, loro sono qui con me, era quello che volevo. E il suo amico sapere. Che ha avuto la stessa notizia e che faceva? Arriva qui e mi dice, Marco cosa è successo, ti vedo più sereno, io dico sai, ho chiesto a Dio di darmi un segno che la fine non è la fine di tutto, ma che loro sono qui con noi, con lo spirito, c'è qualche cosa e che noi non siamo soli. E lui mi dice, e che segno ti ha dato? Nel momento in cui ha finito la parola oh, di ti ha dato, tac, di nuovo il silenzio, al che mi guarda, ha capito, ci siamo abbracciati e ha piovuto 2 minuti nel deserto di Agatama. 2 minuti. E la vostra vita com'è stata dopo? Io mi sono rifatto una famiglia, mi sono sposato, ho due figli, però le volevo dire, rientrando con l'aereo avevo il posto per andare al funerale di mia moglie, avevo il posto a fianco vuoto, mi addormento, mi sveglio di colpo, o meglio pensavo di essere sveglio, ma mi giro e vedo mia moglie di fianco, al che la guardo e le dico, ma tu sei morta? E lei mi dice sì. Allora la guardo e le dico, ma ti rivedrò? E lei mi dice no. E dico, cosa devo fare? Glielo giuro, l'ho vissuto io questo. E lei mi dice, fai quello che devi, vai avanti con la tua vita. Mi sono svegliato di colpo, sudato, guardo, il posto ovviamente era vuoto, sono ritornato a casa, le abbiamo seppellite il 29 di febbraio. Sua moglie non aveva mai visto la neve. Il 29 di febbraio del 1988 alle 4:30 di pomeriggio sono caduti due fiocchi di neve. Io non lo so se è sempre un caso, però le dico, qualcosa mi ha cambiato la vita. Vabbè, lei ha dato una sua testimonianza reale. Quello che chiedevo questa mattina, senza ironia, ho un po' scherzato con qualcuno, ma perché voglio esorcizzare la paura atavica che tutti abbiamo della morte. Ognuno ha raccontato, molti hanno raccontato, qualcuno in maniera più dettagliata, quello che è il loro punto di vista, e mi ritengo appagato. Anche Giuseppe Sanson, vi ringrazio e ci sentiamo domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.